Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il mese di aprile è iniziato e già ci si proietta verso l'estate. Lo facciamo con la proposta di alcune esperienze di volontariato che ci suggerisce la Caritas di Padova. Buongiorno a Giorgio Pusceddu. Buongiorno a tutti. Estate 2017, aggiornamento in corso, leggo sul sito esperienzedivolontariato.it. È un sito, Giorgio, che l'anno scorso insomma è partito ufficialmente, ma che via via si è arricchito. Esatto. Questa è la seconda esperienza, il secondo anno che lanciamo questo sito. L'intento è quello di favorire chi cerca un'esperienza di servizio e di volontariato, dandogli qualche possibilità in più rispetto ai classici già conosciuti o al passaparola, perché raccogliamo in questa piattaforma un centinaio di proposte, a volte proprio un po' di nicchia, un po' meno conosciute, alcune altre invece molto famose, però per dare l'opportunità proprio di ampliare il panorama di scelta degli animatori, dei giovani, dei capi scout, degli educatori, di chi ha voglia di dedicare una parte dell'estate a vivere un incontro mettendosi al servizio dell'altro. Ecco, siccome la carità non ha confini e non li deve avere, questo sito guarda a tutto il nostro paese, a tutta Italia. Sì. Ci allarghiamo fino a tutto il territorio nazionale e anche oltre. L'unica cosa che il filo rosso che collega tutte queste esperienze è che c'è l'incontro. Non sono campi di solo lavoro, non sono campi di spiritualità e basta, non sono campi di formazione pura, ma sono campi in cui è presente la possibilità di incontrare, di vivere la prossimità con persone che vivono spesso situazioni di fatica, per dare il proprio contributo proprio all'interno di una dinamica di relazione. Ecco, sul sito, Giorgio, è anche molto facile insomma cercare quello che è adeguato alle proprie esigenze, non nel senso egoistico ma anche dal punto di vista del tempo, della zona, dei giorni a disposizione. Sì, abbiamo costruito il sito proprio come un sito di ricerca, quindi si possono inserire i filtri, possono usare i filtri inserendo i limiti della propria disponibilità, intesa come giorni, intesa come contributo economico che si può dare, intesa come numero di persone per ciascuna esperienza, in modo che si viene facilitato la ricerca per chi sa, per esempio, che ha solo 2 settimane disponibili durante l'estate perché prende ferie. Ecco, facciamo un esempio molto concreto. Ecco, si può cercare appunto con diverse chiavi, ma si può anche segnalare. Questo è un sito a doppio senso di circolazione, no? Sì, è un sito che permette appunto ai promotori, chiamiamo così, di segnalare le proposte che sono in cosa che organizza ciascun promotore, e ovviamente poi c'è il controllo da parte della segreteria, però è un sito che permette continuamente di inserire i contributi. Infatti in questo momento, stiamo parlando in questi giorni, abbiamo circa 88 esperienze, ma ne stiamo aspettando almeno un'altra ventina di promotori che stanno definendo gli ultimi dettagli e che presto lo inseriranno. Dovremmo riuscire ad arrivare a quota 130-140 entro fine aprile. Eh sì, perché poi l'estate si avvicina ed è bene anche prepararsi per tempo. Hai qualche numero sull'anno scorso? Dicevamo l'anno scorso appunto era partito, è stato presentato questo vero e proprio portale, ma il fatto che venga rilanciato e ulteriormente rimpinguato mi fa pensare che nel 2016 sia andata bene. Sì, è andata bene come test di funzionamento. Abbiamo avuto 40 promotori che hanno inserito le loro proposte per un totale di 120 possibilità di servizio. Dalla gestionale, dall'analytics del sito, abbiamo visto che ci sono stati oltre 14.000 utenti che hanno utilizzato le piattaforme di ricerca. Questo ci ha fatto pensare che insomma, è un servizio informativo che vale la pena continuare a curare, almeno quest'anno a rilanciare, anche un po' più corposo se riusciamo. E allora, esperienzedivolontariato.it in vista dell'estate. Grazie Giorgio, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.